disperata e di tormento. Fui ripresa dai vivi, minacciata dai morti, in schermo uguale agli uomini e dall'ombre. Purtroppo io t'ho tradito, purtroppo io t'ho tradito, oh infelice! Membro lacerato.